Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fare rete per migliorare l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, concluso un percorso promosso dal Civiform in collaborazione con partner pubblici e privati e finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un centinaio gli interventi eseguiti dalle 20 di ieri dai vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per i danni causati da una breve ma intensa ondata di maltempo. Tra gli altri, due incendi che hanno impegnato i vigili a Varmo e a Villesse. Transiti in aumento nel fine settimana sulla 4 Venezia-Trieste a causa del bel tempo, delle prime partenze per le vacanze, ma anche di eventi come le frecce tricolori a Jesolo e il concerto di Ultimo a Lignano. Domenica previsti transiti superiori alle 169.000 unità. Al Via Tramonti a Nord-Est, un progetto con la direzione artistica di Elise che prende vita in tre location suggestive, oggi lungo le rive di Trieste, domani nel Golfo di Monfalcone e domenica nella laguna di Grado Marano. Ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo in studio per la seconda edizione del nostro giornale radio. Si è dunque concluso un percorso lungo oltre 2 anni promosso dal Civiform in collaborazione con partner pubblici e privati e finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo quello di fare rete per migliorare l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati una volta raggiunta la maggiore età. Movimenti liberi fatti di contatti, in cui hanno raccontato col corpo il viaggio che li ha portati fino a qui. Una performance di musica, danza, poesia, quella messa in scena nel parco esterno tra le villette che ospitano oltre 30 minori non accompagnati del Civiform di Opicina a Trieste. La conclusione di un progetto iniziato 2 anni fa e che aveva l'obiettivo raggiunto di attivare una vera comunità educante fatta di tutti gli operatori che si occupano di minori stranieri non accompagnati. Una decina le comunità messe in rete, 200 tra educatori, insegnanti, tutori coinvolti, un centinaio i ragazzi che hanno partecipato alle tante attività laboratoriali con l'obiettivo di rendere questi ragazzi più consapevoli e autonomi nella vita adulta lontano da casa, finanziare il progetto Impresa Sociale con i Bambini che sostiene interventi finalizzati proprio a rimuovere gli ostacoli di natura economica. Noi siamo con Annalisa Orlando del Civiform. Cosa avete imparato da questa esperienza? Abbiamo imparato a conoscerci e riconoscerci, abbiamo imparato come tutta la rete degli operatori coinvolta a impegnarsi, a includere questi ragazzi, a migliorare il sistema di accoglienza di questi minori. Dove bisogna fare meglio? Fare meglio sotto tanti punti di vista, da un punto di vista di creare contatti e sinergie che possano aiutare, quindi obiettivo è come aiutare questi ragazzi a passare dalla minore età alla maggiore età. Quando arrivati a 18 anni i ragazzi sono per lo più da soli e devono costruirsi una vita sociale di integrazione nel nostro territorio. Tutto questo lo fate in pochi mesi perché i ragazzi stanno una media di tempo qui di 6-7 mesi. Sì, effettivamente i tempi si sono ristretti e però tutti gli operatori sono in grado di dare informazioni e di aiutare i ragazzi nel proseguio, quindi questo è un po' il valore aggiunto, cercare di aiutarli creando sinergie fra gli operatori, questa è la grande forza. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La diaspora iraniana in tutto il mondo occidentale sta vivendo giorni di apprensione per il proprio popolo e la propria famiglia. Abbiamo incontrato una giovane donna iraniana fuggita dal suo paese diversi anni fa. I tentacoli del regime degli Ayatollah sono così lunghi e pervasivi che portano la paura anche fuori dai confini del paese. La donna Farsi che incontriamo con un gentilissimo sorriso ci spiega che pur non essendo un'attivista politica non vuole assolutamente essere riconoscibile per proteggere i propri familiari che sono rimasti in Iran. Io mi sento divisa in due, il mio cuore è lì, nel mio paese. La mia mente cammina per le strade, vede gli alberi, però il mio corpo è qua al sicuro e mi sento impotente di fare qualcosa. In questi giorni che ci sono stati i bombardamenti sia americani sia israeliani abbiamo visto che è stata colpita anche la prigione lì dove vengono rinchiusi i prigionieri politici. Questo secondo te ha aiutato chi appunto combatte contro il regime o l'ha ancora rafforzato? è stata una cosa simbolica attaccare Evin, perché proprio lì ci sono le migliori menti iraniane rinchiuse. Semplicemente non parlare, per non dire, non protestare. Il mio cuore è là con il mio popolo che è rincluso lì dentro e non si sa adesso cosa succederà per loro, perché li hanno spostati in altre carceri in Iran e non si sa, ma mi sa, io posso dire che è peggiorata la loro condizione. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Pordenone, dove dal 1 luglio è previsto un presidio logistico di polizia locale e steward urbani alla casina Liberty di via Mazzini, in una zona strategica all'ingresso della città. Lo scopo è quello di vigilare sulla sicurezza. Partirà dal 1 luglio un nuovo presidio logistico presso la casina Liberty di via Mazzini, proprio di fronte alla stazione ferroviaria a Pordenone. Con l'assessora alla sicurezza Elena Ceolin chiediamo di cosa si tratta, cos'è questa novità. Ecco, si tratta proprio di un appoggio logistico dove la polizia locale e gli steward urbani potranno così appoggiarsi e avere uno sguardo su quello che è il punto d'ingresso, e quindi noi ci siamo dove conta nella città, il punto d'ingresso della stazione per pendolari, studenti, turisti, su via Mazzini, la stazione delle Corriere, e su Parco Querini e il Centro Valle. Quindi nel cuore della città avremo non uno sportello, bensì proprio un appoggio per polizia locale e steward urbani. Questo è la concretizzazione, insomma, di una visione della sicurezza della città, una visione che passa attraverso la diffusione della cultura della legalità, ma anche attraverso delle azioni concrete come questa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Grandinate diffuse anche con chicchi di diametro superiore ai 10 cm, piogge localmente intense in pianura fino a 47 mm in un'ora, raffiche di vento da nord-ovest fino a 90 km all'ora in pianura e 80 sulla costa, e migliaia di fulmini. Il maltempo ha colpito dopo le 20 di ieri diverse aree del Friuli Venezia Giulia. Alla sala operativa regionale della Protezione Civile sono pervenute segnalazioni di locali allagamenti, caduta di alberi e rami lungo la viabilità per le forti raffiche di vento e locali grandinate. Un centinaio in tutto gli interventi effettuati dai vigili del fuoco fra le 20 di ieri e le 8 del mattino, che sono poi proseguiti anche in mattinata. I più numerosi nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone, ma alcuni allagamenti si sono registrati anche a Trieste. A Varmo, in provincia di Udine, un fulmine ha provocato l'incendio delle travi in legno del tetto di una palazzina di 4 appartamenti senza causare danni alle persone. Segnalato anche un incendio boschivo da fulmine in comune di Resia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 29 gradi, il mare è mosso con una temperatura di 25 gradi e mezzo, a Gorizia 30 e mezzo, a Udine 29, a Pordenone 28, a Tolmezzo 26 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 24, a Tarvisio 23 e mezzo, a Piancavallo e Sappada 22, sul Monte Zoncolan 17 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 17, a Lignano 28 gradi e mezzo. La temperatura del mare è di 27 gradi a Grado e di 25 a Lignano. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con la possibilità di qualche locale rovescio sui monti. Il caldo sarà meno afoso dei giorni precedenti. Venti di brezza nel weekend, sole e caldo. Avremo un fine settimana con l'anticiclone nordafricano che ritorna ad impossessarsi di tutto il Mediterraneo, fin oltre le Alpi e l'Europa centrale, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso in montagna, con temperature ancora pienamente estive, oltre la norma, che avranno massime intorno ai 33-34 gradi di pomeriggio in pianura e sui 30-31 lungo la costa, minime intorno ai 20 in pianura, sui 25-26 lungo la costa, temperature che sono 3-4 gradi almeno oltre la norma. Da dire che lo zero termico si porterà oltre i 5.000 metri tra sabato e domenica, stabilendo un nuovo record assoluto per la regione, probabilmente si avvicinerà ai 5.500 metri, mai successo prima neanche nei mesi di luglio e di agosto. Per la prossima settimana ancora caldo, con l'unica differenza che probabilmente ritorneranno i temporali pomeridiani in montagna, ma nel classico, diciamo, comportamento estivo del tempo in regione, quindi non ci sono altre variazioni significative, il caldo rimane una costante. Come da interpretare questo record dello zero termico? Beh, dice ancora della forte spinta che determina l'anticiclone nordafricano sempre più spesso e sempre più forte verso l'Europa centrale, cosa che è successo frequentemente negli ultimi decenni, e questo dato, diciamo, di questo weekend enfatizza ulteriormente quanto sia forte questa spinta, di gran lunga più forte di quanto abbiamo avuto in passato. Certo, non si ripercuoterà a livelli bassi in maniera determinante, però è un indice di quanto l'atmosfera si stia riscaldando. Transiti in aumento nel fine settimana sulla 4 Venezia-Trieste a causa del bel tempo, delle prime partenze per le vacanze e anche di eventi come le frecce tricolori a Jesolo e il concerto di Ultimo a Lignano Sabbiadoro. Per questo, già a partire da questo weekend, Autostrade Alto Adriatico rafforzerà l'organico su strada con l'ausilio anche di piazzalisti, ovvero personale che indirizzerà le auto nei caselli per agevolare i flussi. Gli indicatori del traffico raccolti in questa prima parte di stagione estiva hanno fatto segnare un aumento dei transiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si stima dunque che domani, giornata da bollino rosso, potrebbero transitare più di 194.000 mezzi sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, con possibili code o rallentamenti sulla 4 in direzione Trieste alla mattina e al pomeriggio in prossimità degli svincoli verso le località balneari, nel tratto a due corsie San Donà di Piave Portogruaro e in uscita la barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia verso le località balneari alla mattina. Sulla A57 tangenziale di Mestre al mattino e al pomeriggio in direzione Trieste con possibili rallentamenti tra lo svincolo del Terraglio e il bivio A57-A27. Domenica 29, giornata da bollino giallo, si prevedono transiti superiori alle 169.000 unità. Il traffico sarà sostenuto sulla A4 in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli in direzione del mare. Aggiornamenti in tempo reale sul traffico sui siti www.infoviaggiando.it e autostradealtoadriatico.it. Il Comune di Udine ha reso noto che è attiva sull'app di Ride Movi, la società che gestisce il servizio di bike sharing a Udine, la tariffa Movi Flex, una promozione per favorire l'uso del servizio di biciclette a noleggio nella città di Udine. Il capoluogo friulano è la prima città italiana scelta da Ride Movi per lanciare questa nuova formula promozionale in via sperimentale, con l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'uso della mobilità dolce, rendendo l'accesso al servizio di bike sharing ancora più semplice per tutti. Con un costo fisso di 2,99 euro ogni 30 giorni, gli utenti potranno usufruire di tariffe agevolate per ogni singola corsa. 30 centesimi per 15 minuti con le biciclette elettriche e i bike e 15 centesimi per 15 minuti con le biciclette muscolari. Superata la soglia dei 15 minuti, comunque superiore ai 12 minuti di utilizzo medio delle biciclette a noleggio in città, si applicano le normali tariffe standard. La promozione, dedicata in particolar modo a chi utilizza frequentemente per brevi tratti le bici, prevede un risparmio rispetto ai costi attuali. Oggi infatti esclusi i pacchetti a esaurimento credito, una corsa con i bike prevede un costo di 25 centesimi al minuto più un euro per lo sblocco del mezzo, mentre l'abbonamento mensile ha un costo di 12,99 euro con una tariffa di 1,50 euro ogni 20 minuti. Le biciclette muscolari prevedono invece un costo di 1,50 euro ogni 30 minuti, un abbonamento mensile da 10 euro con utilizzo illimitato fino a 30 minuti e un abbonamento annuale da 50 euro. È stato presentato nella sede di Confindustria Udine un concorso dedicato all'ultimo triennio delle scuole superiori che si pone come obiettivo lo sviluppo dei temi della sicurezza sul lavoro attraverso la tecnologia. Il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, ha dichiarato che fin dall'inizio del suo mandato ha voluto rafforzare l'impegno sulla sicurezza. Il concorso Safety by Technology, ha sottolineato, non è solo un progetto educativo, ma una visione per il futuro del lavoro che coinvolge scuole superiori, ITIS e Università di Udine. Il concorso è aperto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole superiori della provincia di Udine. L'invio degli elaborati è previsto per i primi di ottobre. I 3 migliori progetti riceveranno buoni spazi spesa per materiali tecnologici e didattici. L'obiettivo è promuovere soluzioni tecnologiche innovative per rendere i luoghi di lavoro più sicuri, facendo della sicurezza un valore culturale e non solo un obbligo normativo. L'assessore regionale Alessia Rosolena ha ribadito che i giovani sono il nostro capitale più importante e la tecnologia non basta senza l'intelligenza umana. Il concorso per l'assessore è un'iniziativa importante che rafforza l'impegno della Regione per la sicurezza sul lavoro, sottolineando il valore dell'educazione nelle scuole su un tema che rappresenta un diritto fondamentale e misura la civiltà di una società. Ha ricordato inoltre la morte sul luogo di lavoro dello studente Lorenzo Parelli, morto durante uno stage, come l'avvio di un nuovo percorso con l'INAIL. Angela Forlani, direttrice regionale dell'INAIL, ha sottolineato invece che la prevenzione degli incidenti sul lavoro passa dal supporto alle aziende e da una forte responsabilità etica. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e ogni studente deve essere formato e informato sui rischi. La Forlani ha inoltre evidenziato l'importanza della consapevolezza fin dai percorsi scolastici per attivare strategie di mitigazione che, anche grazie alla tecnologia, porteranno risultati concreti nel tempo. Udine, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si chiama tecnostress ed è la sensazione di ansia provocata dal nostro rapporto sempre più stretto con la tecnologia digitale. Ma tra le conseguenze di una frequentazione eccessiva dei social network c'è anche la perdita di controllo sulle nostre emozioni, sempre più manipolate dagli algoritmi. Ne abbiamo parlato con il professor Luca Chittaro dell'Università di Udine nel nostro programma. Buongiorno Regione. Tanto, forse troppo, è il tempo che passiamo connessi a internet e sui social network. Secondo alcune ricerche, la media è di quasi 7 ore al giorno, cioè 100 giorni in un anno. Numeri che allarmano, anche perché, si comincia a notare, il nostro rapporto eccessivo con la tecnologia digitale presenta conseguenze negative. Una di queste è un sovraccarico cognitivo eccessivo. Il docente dell'Università di Udine, Luca Chittaro. Siamo costantemente bombardati da un flusso enorme di stimoli e di informazioni dagli strumenti digitali, sia al lavoro sia nella vita personale. Però sfortunatamente il nostro cervello, le nostre capacità di attenzione, memoria, ragionamento sono sempre le stesse, quindi non riusciamo a far fronte a questo sovraccarico. Il risultato è il tecnostress, una condizione di ansia continua che porta a fare scelte frettolose, anche perché le tecnologie ci impongono di essere veloci, con tempi di reazione quasi immediata a messaggi e notifiche. Lo si vede ormai in ogni ambito, ma soprattutto in quello del lavoro, dove il multitasking, cioè la capacità di fare più cose nello stesso momento, viene incentivata, ma secondo il professore è in realtà uno svantaggio. Ci porta in uno stato che si chiama di attenzione divisa, cioè la nostra attenzione è una risorsa limitata. Se iniziamo a spezzarla fra più compiti di ragionamento, succede che dobbiamo svolgere un ulteriore compito, che è quello di ricordarci su cosa stavamo lavorando pochi secondi fa, e ciò paradossalmente ci fa diventare più lenti. La cosa forse più preoccupante è la capacità dei social di influenzare le nostre idee attraverso i post che vengono mostrati o il nostro modo di agire usando like e cuoricini. Il nostro comportamento rischia di essere diretto da fuori, da like che ci arrivano fra l'altro anche da persone completamente sconosciute che non sappiamo chi sono, ma addirittura sempre di più da non persone, perché nei social viene usata sempre più l'intelligenza artificiale, quindi ci sono utenti completamente finti, completamente generati dal computer, che ci mandano like, reazioni e possono quindi influenzarci. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al Via Tramonti a Nord-Est, un progetto che porta la firma della direzione artistica di Elisa e che prende vita in tre location suggestive, oggi lungo le rive di Trieste, domani nel Golfo di Monfalcone e domenica nella laguna di Grado di Marano. Tre palchi sull'acqua per permettere al pubblico di assistere a concerti da piccole imbarcazioni. L'ingresso agli show è gratuito per chi ha effettuato la registrazione agli eventi realizzati con il sostegno della Regione attraverso la collaborazione con Promoturismo. Sognavo da tempo un festival immerso nella natura che unisse paesaggio, musica e anima, ha raccontato Elisa, che l'ha ideato insieme alla sorella Elena Toffoli. Ogni concerto sarà diverso proprio perché filtrato da ciò che lo circonda. Il via questa sera a Trieste davanti a Piazza Unità d'Italia, con un palco allestito a bordo della storica nave Palinuro della Marina Militare Italiana. Sarà Tananai a inaugurare la serata, seguito dal DJ set di Mace, che animerà l'atmosfera con suoni elettronici e coinvolgenti. L'atteso concerto di Elisa sarà anche il primo evento accessibile a tutti grazie a Open Arts, un'iniziativa che permette a chiunque di partecipare alle manifestazioni culturali. In linea con la nuova normativa che entra in vigore in tutti i paesi europei domani, la serata sarà fruibile anche da persone con disabilità sensoriali. Le persone cieche e ipovedenti potranno ascoltare l'audiodescrizione via smartphone, mentre le persone sorde e ipoacusiche potranno leggere i sottotitoli in tempo reale. Presentata a Udine la seconda edizione di In Cinema Outside, la rassegna di cinema all'aperto per tutti, accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali. 4 gli appuntamenti in programma nel giardino Loris Fortuna in piazza Primo Maggio all'interno della rassegna Udine Estate in collaborazione con il Comune e il Visionario. Le proiezioni saranno accompagnate da sottotitoli per persone sorde e ipoacustiche e da audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti. La prima serata è in calendario il 3 luglio con Caring is Sharing di Vincenzo Mauro. Vogliamo far capire che creare eventi cinematografici accessibili a tutti non è difficile. In Italia però non si sta ancora facendo abbastanza, ha dichiarato Federico Spoletti, ideatore di In Cinema Outside, progetto ormai internazionale. La nuova edizione si presenta ancora più attuale perché da domani, come detto anche poco fa, entrerà in vigore la direttiva europea che rende obbligatoria l'accessibilità digitale dei prodotti culturali. Ora lo sport con il calcio. L'Udinese ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Metz Arthur Attà. Il centrocampista era arrivato in prestito la scorsa estate e ha subito dimostrato tutto il suo valore alla prima stagione in Serie A. Ora proseguirà il suo percorso con la maglia dell'Udinese. Arthur si è legato al club con un contratto fino al 30 giugno 2029, ha precisato l'Udinese. Questa sera alle 19.30 su Rai 2 la diretta della semifinale dei campionati europei di basket femminile tra Italia e Belgio. Nella formazione azzurra milita la triestina Stefania Trimboli, di 28 anni. 10 anni fa, quando era poco più di una ragazzina, Stefania Trimboli faceva parte del nucleo dell'ultima ginnastica triestina in Serie 1, ultima regionale ad assaggiare, anche se per una sola stagione, i vertici del basket femminile italiano. Oggi, alle 19.30, diretta Rai, la playmaker triestina è tra le 12 azzurre a caccia di un risultato storico nella semifinale europea contro il Belgio. La finale per loro manca dal 1995, quando Trimboli non era neanche nata. Il suo apporto dalla panchina, soprattutto nella gestione del ritmo e nel tiro da fuori, è stata molto importante per la squadra di Capobianco, che ha in Zandalasini e Kubai le punte di diamante. Nevio Giuliani, un'istituzione della pallacanestro femminile in regione, non solo, Trimboli l'ha cresciuta lanciandolo in prima squadra da teenager, con 2 promozioni di fila e un anno nella massima serie. Le qualità, da giovanissima, erano già evidenti. Si vedeva già, aveva il DNA del padre, che è stato un ottimo playmaker, e lei, la sua forza era che non si accontentava mai di stare in palestra, si allenava come una bestia e ci metteva proprio il 300% ogni allenamento. Per Giuliani, che ha smesso di allenare da qualche anno, la partita di stasera sarà vista con più nostalgia o con più orgoglio? Orgoglio, pensando a mamma e papà sua, che saranno anche loro attaccati al televisore. È un orgoglio per Trieste, perché dopo tanti anni finalmente ha nuovamente una giocatrice di primo livello. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo una stagione in prestito, la Pallanuoto Trieste comunica che in vista del campionato di Serie 1 femminile 25-26, Grace Marussi tornerà a indossare la calottina della società sponsorizzata da Summer. Triestina, classe 2004, attaccante di mano destra, cresciuta nel settore giovanile alla Bardato, nell'estate del 2024 Grace si è trasferita alla Nautilus Civitavecchia. Con il club laziale ha vinto la regular season del girone sud della Serie A2 e poi ha superato il Sori Pool Beach in un'accesissima serie di finale playoff, culminata in gara 3. Adesso il rientro nella squadra della sua città. Il Comune di Trieste informa che per la necessità di procedere a lavori di carattere manutentivo l'orto botanico rimarrà chiuso da oggi fino a domenica 6 luglio. La riapertura della struttura di Scala San Luigi è prevista per venerdì 11 luglio. Il Festival a Prodi inaugura la sua 9ª edizione con l'anteprima assoluta dello spettacolo Frattaglie Italiane, Le Animelle di Stefano Benni. Il nuovo spettacolo teatral musicale di Sonia Barbadoro e Lorenzo Acquaviva, che porta in scena l'ironia feroce e poetica del grande scrittore bolognese. L'evento si terrà alle 21.15 nella terrazza del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro. Azzano Decimo ospita un'anteprima di pagina 100 dedicata a Paola Tantulli, anima e direttrice editoriale della casa editrice Biblioteca dell'Immagine, recentemente scomparsa. Ospite dell'evento sarà Walter Tomadas, giornalista e storico, e al Teatro Comunale Marcello Mascherini alle 20:45. La città di Pordenone è invitata all'evento conclusivo della 37esima edizione di Curiosi Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa di promozione turistica e culturale della regione organizzata dall'Istituto Regionale di Studi Europei. L'incontro è aperto a tutti gli interessati e offrirà l'occasione per conoscere meglio i giovani professionisti del turismo provenienti da 9 paesi diversi che hanno partecipato quest'anno. A conclusione dell'incontro un aperitivo di arrivederci alle 19 nell'auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi. Nasce Suoni e Natura, la prima edizione del festival promosso dal comune di Cavazzo Carnico, 3 serate nel cuore della Carnia da oggi al 29 giugno, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio nella sala consiliare del comune alle 20:30. A Colloredo di Prato incontro con Cristiano Caracci, autore di Ombre e segnali dal mare, modera l'incontro l'assessore alla cultura Paolo Montoneri alle cantine Antonutti alle 18:30. E infine la Biblioteca Civica di Cividale presenta Sogno di un patriarca eletto, il nuovo libro scritto da Luigino Peressini, l'appuntamento nella chiesa di Santa Maria dei Battuti alle 18. Ed è tutto per questa edizione, in redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Samuel Modi. Tanto da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.